boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Sono tutto svaccato così, un po' svaccato. Ti vedo. Dai, no, su, dritto, dritto. Sì, lo so, dritto. Sono un po' svaccato. Va bene che il 28 giugno è tardi. Ho due protrusioni. Un nevo sospetto, quello un si nevo, sa. Un nevo sospetto. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Cappedrago. Siamo qui grazie. All'asilo, nonostante sia tardi, ho capito. No, tardi. È 28 giugno, è tardissimo. È tardi, sì. L'orologio biologico fa TikTok, è qui. Sulle vacanze. Sì. Ah, non sulla maternità. No, sulla maternità, sulle vacanze, sul desiderio di andare. Sì, infatti. Però oggi è una puntata speciale, perché abbiamo anche il riassunto. Ecco, allora, oggi parleremo di... Dai. Come aprire un asilo privato, soprattutto perché il vademecum istituzionale per non dimenticare i bambini chiusi in macchina. Poi, così è successo. Il ministero ha fatto questo vademecum. Poi i bambini con sorelle maggiori diligenti vanno meglio a scuola, però in Etiopia. Vabbè, poi spostamento dei ministeri a Monza. Immaginiamo uno scenario con... Drago, sì, io devo fare le rotative. Basta, è finita. È finito il sommario. Avete capito di cosa parleremo? No. Cominciamo con l'asilo privato. Ecco. Se questo fosse un asilo privato, noi non avremmo le suore, non avremmo, che ne so, Claudia di là, perché? Nemmeno Mauro, perché sarebbe un asilo in casa di qualcuno che ha la casa grande e che ha deciso di aprire un asilo privato. Quindi si potremmo finire a casa di una mamma qualunque, tipo la mamma di Ema. No, la mamma di Ema no. Apre l'asilo e poi botta tutti. Ma la mamma di Ema è quella che picchia i bambini, esatto, picchia suo figlio. Quindi gli attenzione. Dice che è un handicappato, esatto, povero quindi bambino. Attenzione, io voglio dire, ho letto quello che bisogna fare per aprire un asilo privato, è abbastanza tutto semplice. Ah, quello che non c'è è il test psicoattitudinale a chi rivolge la domanda. Cioè io posso essere un pazzo, anche un pedofilo, fare tutto quello che dice la legge e poi mi fanno aprire l'asilo privato e io ho 5-6 bambini in casa tutto il giorno. Quindi voglio dire, non so, immaginiamo dei casi estremi. Allora, uno apre... No, vai avanti, perché io non so dove ti stai cacciando, Drago, questa cosa. No, io è un consiglio, insomma. A chi? A quelli che vogliono stare con i bambini, oltre a fare il sacerdozio come e il professore di educazione fisica, possono anche aprire un asilo privato, capito? E vabbè, questo è un consiglio disinteressato. Asilo nido. Allora, qui noi dobbiamo intenderci, io voglio capire una cosa su questo federalismo. Ho capito che un posto in un asilo nido deve costare... Asilo nido. ...allo stesso modo a Reggio Calabria come a Reggio Emilia. Siamo d'accordo? Bisogna far così. Asilo nido. Non ho ancora capito che risposta viene al seguente problema. Primo, cosa intendiamo per asilo nido? Asilo nido. Cioè, gli asili nidi italiani che standard devono avere? Asilo nido. Secondo, quanti posti d'asilo nido ci vogliono per i bambini italiani? Asilo nido. L'Europa dice 33. 33. Su 100 bambini. In Emilia sono 30. 30. La media italiana è 10. 10. A Reggio Calabria sono 2. 2. Asilo nido. Io voglio, per discutere di federalismo, sapere prima che obiettivo ci diamo per i posti d'asilo nido degli italiani. Diamo il diritto di asilo nido. Ema! Ema! Ema! Cos'hai, K? Lascia perdere il povero bambino Ema. Ma dai, magari lo salviamo, Drago. Non si può salvare il bambino Ema. Lui apriamo un asilo privato solo per il bambino Ema. Magari. Ema! Ema! No, non c'è. Non c'è. L'avranno dimenticato in macchina. Sai che d'estate succede. Ma sì, speriamo di no, perché Succede. È successo diverse volte. Succede 35 volte, mi pare, all'anno negli Stati Uniti, che è un numero eccezionale, no? Sempre. Ma sai con perché? Esiti terrificanti. Terrificanti perché l'ipertermia in 2 ore può uccidere un bambino dimenticato in una macchina, anche all'ombra, voglio dire, anche quando fuori ci sono 18 gradi, non importa, perché la macchina diventa subito calda. Però sai cos'è? Cosa? È successo tutto, un'escalation di queste dimenticanze, da quando la legge impone di tenere i bambini sul sedile dietro, girati verso il lunotto posteriore. Lì proprio una posizione in cui i genitori se li scordano molto più facilmente. Una volta si poteva tenere vicino, capito? Era proprio diverso. Un braccio magari, come ha fatto Britney Spears. Esatto, no? Quello è sicuro che non te lo dimentichi. Comunque il Ministero della Salute ha pensato bene di fare un vademecum per tutti i genitori, in modo che non si dimentichino i bambini in macchina. Vabbè. Ecco. Il primo punto del vademecum non è per i genitori, ma per quelli che... Non fatevi le canne. Ad esempio il primo, anche quello di non bere troppo. Però se vedete un bambino in una macchina chiuso, chiamate subito il 112 o il 113. anche se siete stati voi a dimenticarlo, chiamate il 112 o il 113. Così vi arrestano anche direttamente. Esatto. Okay. E se tardano ad arrivare, però spaccate voi il vetro della macchina con un martinetto. Con una mazza, con qualcosa. Spaccate il vetro della macchina, attenti però a non far male al bambino. Infatti. Poi dicono, non lo so, se trasporti sul sedile posteriore della tua auto un bambino, lasci i tuoi oggetti personali, borsa, telefonino, valigetta, eccetera, sul sedile posteriore vicino al piccolo. Così. Almeno il telefonino non te lo dimentichi, senz'altro. Quindi quando accompagni il bambino al nido o all'asilo, aggiungi sul programma dell'agenda del tuo computer o del tuo telefonino un apposito promemoria, oppure scrivilo sulla tua agenda di carta, che può segnalarti se hai portato o meno il bambino a destinazione, come programmato. Vabbè, ma fatti il nodo al fazzoletto. Esatto, è più o meno quello. Il telefonino può anche essere utile ogni tanto se si usa il promemoria, però chi lo usa il promemoria? Io non ho mai usato in vita mia. Poi ogni volta che si verifica un cambiamento, ma tu non hai neanche un figlio, quindi lascia stare, vai avanti. Potrei dimenticarmi il telefonino, il figlio, o tutto te stesso insieme, in macchina chiuso. Comunque bastano due ore per morire, quindi attenzione, che è inutile, cioè bisogna fare in modo che se il bambino non arriva a scuola, la scuola nel giro di 10 minuti ti chiami per dire come mai il bambino non è a scuola. Quello non succede mai. No. Se alle 10 del mattino se ne accorgono, ti chiamano, può essere già troppo tardi. Quando in macchina non c'è nessuno, abbi cura di chiudere le portiere e il bagagliaio posteriore e di tenere le chiavi lontano dalla portata dei bambini, per evitare che siano loro a chiudersi dentro per errore. Ema! Le chiavi della macchina? Ce l'avevi tu. Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. Cosa vuoi da me? Cosa mi ti guardi? Sto guardando. Per cosa vuoi? Per capire se tu sei uno di quei. Tu hai una sorella maggiore, giusto? Sì. Andava bene a scuola? Ma. Sì? No. Perché dicono che se uno ha una sorella maggiore che va bene a scuola, vedi? Poi va bene a scuola anche lui. Invece, se non ha sorelle maggiori. Siccome la mia non andava bene a scuola, non importa. Vabbè, basta. Questi ricercatori. Ma che ricercatori? È uno studio dell'università di Göteborg, anzi di Göteborg, come si dice in svedese, coordinati dalla dottoressa, attenzione, Annika Lindskog. Che però non è stata effettuata in Svezia questa ricerca, dove poteva essere anche interessante per noi, è stata invece effettuata in una zona rurale dell'Etiopia, stato africano molto povero e a bassa scolarizzazione. Google tu hai un problema fortissimo. Perché? Perché stai lì tutto il giorno a cercare delle cose, ti vanno insieme, secondo me, delle notizie, e crei questi aborti di notizie. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questa cosa delle sorelle che, nel caso in cui vadano bene a scuola, fanno andare bene anche a scuola automatica. Ma chi se ne frega le sorelle, la scuola, non siamo mica Matteo Caccia qua, Senti cosa ti auguro. Che ti cadesse un fulmine da un cielo di tempesta e se oggi il cielo è limpido, almeno qualche rondine te la sganciasse in testa. Cos'è sta roba? È la sigla di Matteo Caccia fatta con un ukulele. E attenzione, perché questo è il nuovo quiz di Chiedo Asilo. Senti com'è. Allora, qual è questo strumento? Il nome di questo strumento? Allora, scrivete a chiedoasilo@radio24.it con il nome di questo strumento.